oyster. Yeah, yeah. Oyster. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Beh, Antonè, ci sei? Sì, io ci sono. Sono arrivato adesso. Io ti sento bene a Puglia. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Cos'è? Ciucchicciù, ciucchicciù, ciucchicciù. La 12 più 9, come mai, strano? Beh, devo uscire, Antonè, buonasera. Ciao Giovanni. Sto facendo la spesa, mi sembra pesanietta. Ho capito. Chi è la pesanietta? Leoncino che sta facendo la spesa. Ah. Leoncino, non mi senti a me? Già ti sento io a te, Giovanni. Oh, ebbene, Giuseppe. A San Nicola sono qua. A San Nicola. Ah, in giro no. Andà bene, andà bene. Dove ti rilassai di là, No, non spendo io soldi. Qua sono per le persone che devono un po' handicappate. Ma, devo dirle chi saprà, Giuseppe. Devo dirle chi saprà, gatta. Cosa devo dire? Che qua è un reparto di sani. Ma diglielo, Antonè. Guarda che a San Nicola Piandannami c'è un centro riabilitativo lì, c'è del comune. Aspetta che me l'ha suonato, 2 minuti. Ah, certo, non so che sono anticappato. Boh, Giuseppe, non devi dire una frase. Mi ha un attimo che mi hanno chiamato giù. Ehi, vai, vai. Antonello, ci sei? Antonello? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Ciucchicciù, ciucchicciù. Antone, dimmi tutto. Dammi, com'è la radio? 5 perfetta chiara. Com'è? 5 perfetta chiara. Oh, va bene, va. Il segnale è buono, Ho voglia. Ok, va bene, ti chiamo dopo e so metto da posto con un capo. Comunque il segnale è 9:10 e la radio è 5 perfetta. Ok, grazie, per adesso. Di niente. Ma perché non ti fai ricoverare? Sicuro. Ciao Giuseppe. Tanto il posto c'è qua, ci sono un bel di letti a posto, liberi. Se vuoi ti mettono in incontro. Se vuoi con tu i libri. Vai, vai. La matta te ne vai, Proprio ci stai bene qua dentro tu, Sì, molto. Il barrado. Meglio niente qua, a stare lì. Tu carità, bubu. Certo. È veramente meglio niente qua dentro, cazzo, per carità. Un posto così schifoso, cazzo, non l'ho mai conosciuto. Tu, ce l'ho io. È brutto quel posto qua, meglio non andare, esserci mai. Mi senti, sì? Sì, è voglia che ti ascolto. E tu mi ascolti, sì. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Già ti ascolto, Antonio, già ti ascolto. Ho detto, un posto così schifoso come questo posto, non ce n'è altro. A me sono capitato da avere altro. È brutto quel posto di davvero, no, scherzando. E dove si è arrivato adesso? Al monte, sì. Cucù. Cos'è? No, che se ne sei scendendo, sta scendendo appena appena di tensione. Non ho capito perché. Forse come ho fatto girare l'antenna stamattina. Evidentemente. Cazzo, hai capito. Quella là del conto, cazzo, mi ha detto cosa. Perché mi sono caduti 1 euro dentro quel cazzo di qua di gratta, no? E stavo facendo il conto per. Dice cosa sta combinando? Atto mi sono caduti su lì e stavo cercando di toglierla pure, no? Ho detto, non sto rompendo niente, stia tranquilla. Ah, sono caduti i soldi dentro la cosa. Già non ne ho soldi, cazzo. Più cazzo li vado a perdere così. Dice, venga lunedì che ci sono i mantentori e c'è la fattura del mantentore, hai capito? Ho detto, non è bello domani io, 1 euro. E appunto per quello, tu dici, perché non me ne dà lì 1 euro? E poi lì dà, ma dove se lo fa dare? Qual è il problema, dici? Cos'è, hai detto, Antonè? Ho detto, potevi dirgli, mi dia un numero lì, poi da lì, lì quando viene, ma ho detto che lui se lo fa dare le, un euro, non gli cambia mica la vita, no? Se le dico così, ascolti, mi dia un euro lì, quando vengo al mantenitore ce lo fa rilare. Appunto dico che fare così, stai a perdere tempo con quella lì. Hai fatto che non me ne dà, hai capito? Cazzo, una persona così acida come questa, cazzo, qua, questa è la seconda persona acida che ho trovato. Infatti non mi vedi, che se li tengo loro. Hai capito? No, dimmi. Ma ascolti, sì. Adesso ti ascolto. Zona negativa per me. E secondo dove stai andando? Dove stai andando? Dalla città del cazzo? No, devo andare dopo che andiamo da qua. Dobbiamo andare allo spin, capito? A prendere quella roba là, quello che ti ho detto. Dunque, alle 6 però. Che ore sono? Io sono le 5 mi pare che sono. Quasi nel senso, 17.49, sono le 6 meno 10. Allora, meno le 6 meno 10 sono le 6. Prelevo mia madre e andiamo lì a Erospin, via le Prostore, e andiamo a fare quella roba. E tanto quell'euro rimane lì, cazzo, hai capito? E se lo sbaffano loro. Già lo so, già lo dillo a me. Cazzo, non ho capito io. Loro se lo sbaffano loro, sì, già lo credo. Cazzo. Altro guarda che non sto rompendo niente, io stavo cercando solo di potermela portare, di comprarmi i miei soldi, non ho capito. Cazzo, non ho capito. Ho detto non ne ho soldi. Si figura cazzo, poi mi cadono in questa cazzo di gratta, non ho capito. Ma quale gratta è? Quella che c'è in qualche ascensore? Nella gratta dove c'è all'ingresso, ho capito, quelle gratte. Ah, ho capito. Hai capito, no? Mi è caduto, cazzo, mi è scivolato un euro. Stavo togliendo i soldi per andare a prendere un caffè, cazzo, mica mi pigliano, cazzo, mi cade, cazzo, un euro lì dentro. Ho detto, vabbè, pigliatela in culo, ha detto Giuseppe. Purtroppo capita così, cosa ci vuoi fare? Non ci puoi fare nulla, no? Mi ha messo lì nostra 12.8. Cazzo, diavolo, come ho girato l'antenna? Ah, fa il culo. Sta funzionando meglio. Allucinate. Per carità. Adesso sta segnando giusto, 12 volte. Lo fai a 11. Non è se 12. Come già fa leggermente. Se c'è problema di. Cos'è che ha detto Antonio? Con l'antenna del corso. Dell'altra qualche verticale, se va bene. Non ti sento più. E io ti sento, io non ti preoccupare. Mi ascolti. Oi. Io già ti sento, non preoccuparti. Avanti Giomari. A me mi senti, sì? Io ho voglia. Ma il movimento... Ci sentiamo, dai. Antonio, dai. Che adesso escono e lo spengo, dai. Giuseppe è già arrivato, già riprende dopo, ha detto Giomari. Già ti sento, Giomari, a voglia. Ok. No, siccome sto provando un antennino, capito? E già ci arriva, allora vuol dire va bene, stazionare ce ne sono uno e due. Io ce l'ho la cosa, l'ex 30 qua, da installare perché l'ex 300 ha problemi. Ci stanno stazionari, non riesco a capire perché. L'ho attaccata l'altro giorno, vabbè che dovevo andare parecchio tempo che non lo usavo. Evidentemente è entrata acqua. Ci metto la X30, se no c'è la discola che fa dalla... fa anche la 27, fino a 1300 mega si arriva, quindi fa tutta la VU e la 27. Ma l'altro me l'hanno regalata, ho aperto quella e mi sono abile in Napoli. Vabbè, è facile. Lascia così, va bene. Va benissimo. Adesso in questo momento sto usando la direttiva. Capito, l'ho girata un pochettino, l'ho puntata verso te, perché l'ha puntata molte ore poco fa. Ho sistemato il motore un po', questo già gira, quindi adesso l'ho sistemata bene. E poi domani mattina, appena fa un pochettino di caldo, stacco il soppalpetto, stacco la X300 e ci metto la discona. Allora fa tutte le frequenze, l'aggancio allo Yaesu, così non sto a girarmi le balle a salire 50 antenne, utilizzo due in un apparecchio e nell'altro utilizzo la mantova, è giusto più tranquillo, almeno c'è tutto lo spettro, capito? Perché parte da un ben basso e va fino a 1300 l'antenna, fa anche la 27, l'ho già provato. E allora infatti, avere tante antenne non vale la pena, basta un paio, boh, è anche troppo. Antonio, devo chiudere tutto qua, dai, ci sentiamo dopo. Sì, d'accordo, a dopo, dai, ciao. E beh. Dimmi. Cucciolo. Sì, dimmi, cucciolo. Cosa stai facendo? Il maniaco sensuale. Cosa stai facendo? Ha giurito un maniaco. Il maniaco? Stai attento che il maniaco li stanno facendo puri, Li stanno facendo puri, Hai capito, i maniaci? Non credo che li fanno fuori i maniaci, sta tranquillo. Se io a quest'ora cosa redda era. A parte quello, ne stanno facendo anche qua su e ora, Sicuro. Hai capito? No, non ho capito, caro. Mezzo magone. Magone e mezzo, diceva quello. Attenzione che i maniaci stanno facendo quello e altro, anche quello di dietro. Tondino magari. Chi è che vuole parlare? Chi è? C'è uno che sta chiamando una Daphne Blu. Oi. Ogni tanto ne appare uno nuovo. Te parlate dei blondi. Blondo, chi balla? E chi è? Chi sta ballando la sciamba? No, c'è uno che stava schiacciando la chiamata dei blondi. Di cui parlate dei blondi. Ah. Blondi, chi balla? Ah, il magone di Marco, non si è sentito? Non ho ancora sentito a Marco, devo telefonarmi per venire a prendere quei due portatili, che io ho a casa. La frequenza è 462-125, l'ho trovata poco fa, stavo facendo una panoramica della frequenza e... Vuole dire qualcosa, quello che all'otto originale, sono deciso, non cambia nulla. Se non premi lo squelch non ti sente, cioè in pratica lui non mi sente a me con il baracchino normale, ci vuole per lo squelch. Ah, ho capito, vabbè. Tony, fagli fare a Stefano quando viene, la prossima settimana, gli fai mobilitare lì, hai capito? A lui, almeno sa dove mettere le mani, tu adesso non toccare niente, se no fai danno. Ah, già l'avevo passato a stasera, metto Marco. Per quello è importante, quindi sto aspettando che mi chiami. Guarda, sono così di vicina. Sono già pronto in scatto. Ciao Claudio. Tu sei in campagna. Con Giuseppe che gira in macchina, con portatile. Giuseppe ti saluta Claudio, dalla macchina, che c'è la macchina, lui è a casa ma non di qua, a casa di giù. Giuseppe, va là tu di sé. No, io sono qua, chi c'è Claudio c'è? Eia. Salutamelo, dilli che i morti, cazzo, escono dalle tombe. E lui a te non ti sente, hai tu salutati comunque Giuseppe, capito? Prendete Giuseppe ma che ti ascolta. Che zona è? È in campagna Giuseppe, Claudio, in pratica. Ah, in campagna, e che campagna è? A Monteolo mi pare che. Ah? Vabbè, salutalo. Giuseppe, già lo sai dove quale campagna è, quella di Assoluta Monteoro. Lo so, Monteoro, però Monteoro è grande, dipende quale campagna è. Io lo so che Monteoro è grande, è piccolino come Monte, no? e dite che io sono qua a San Nicola, a qua cazzo di centro. Dove sei San Nicola? Non mi sei sentito allora, senz'altro. Se sei San Nicola, ce l'hai di fronte, ma con chilometro dirai. Ma tu non sei dentro un posto. No, sono proprio all'uscita della struttura, hai capito? Hai capito, Antonio? Giuse, mi ti sta chiamando Claudio, lui ha già sentito quando sei uscito dalla struttura. Mi senti, Claudio? Ehi, ti sento perfettamente, sei tu che non mi occupi. Non lo sento, no. Oi. Ha detto che non ti scuccia, Claudio. Ma io te lo sento. Adesso classe, in fondo scala più qua. Giuseppe, io mettiti un punto buono lì a Pedranieta, che dovrebbe copiare Claudio fra poco. Adesso lì sei in mezzo ai palazzi, è logico che non ti sente lì a Piandana, perché su quelle cose in calcestruzzo delle... dove ci sono le fioriere. Sono lì proprio attaccato da dove sono le reti, capito? Sto facendo la ponte con la rete. E io ho già capito che tu lo senti, ma lui non ti sente. Tra poco già vi sentite, non ti preoccupare, appena lui si esce dall'altra ombra, è in macchina, hai capito qua? Dai che sta uscendo la gente, dai. Ci sentiamo più tardi al telefonino oppure a PMR, Antone. Va bene Giuseppe, a più tardi allora, o al telefonino o a PMR, non c'è problema, già sono qui in occhi. Avanti Claudio. Sto aspettando che venga Marco. L'ho chiamato ieri, mi ha detto che passava stasera. Capito? E così ritirava e li faceva, mi ha detto. Sono ancora a vergine, comunque sono uguali vinti, c'è gli 888 che c'avevo io. Né di più né di meno. La stessa cosa, la frequenza è uguale, 462-125. Col come si chiama? Col tono squelch. In pratica tra i portatili tra tutti e due si sentono. Se invece tu paghi per dire la portatile tua, quello lì non riesci a entrare. Perché c'è tutto lo squelch. E non lo avete infatti. No, una volta che gli fa la programmazione glielo toglie quello. Anche gli 888 c'aveva quel. Quando li ho presi il primo giorno, gli ho accesi. E te ci vedi in quella frequenza ci sono uscito. Controllo. Era 462, la stessa identica cosa. Parlavo con l'altro portatile e non si può sentirmi. Allora per me il pulsantino è quello che c'è sotto, no? Quello lato rosso e riuscivo a ascoltarmi, togliendo il tono squelch. Vediamo che riesci a fare. Sì, già mi ha detto che passava stasera, sto aspettando solo che mi chiami al telefono. Mi ha detto appena si svegliava, prima di cenare o dopo cena mi ha detto che mi chiamava così veniva a recuperarmi. Ok, a più tardi, ciao Cla, ciao, ci siamo dopo. È vero, sì. È vero, sì. Luca, sparito, Sì, è davvero. Ciao Claudio, allora saluto anche a te. Buon poco, cazzo ti ho chiamato poco fa, non mi ha risposto, ti ha saltato Claudio, mi Ah, non l'ho sentito, ciao Cla, non lo sento a Claudio, boh. In campagna. Ma qua non arriva, se stavate parlando con Claudio non lo sentivo per niente. Capirai, ti sento io, non ti preoccupare. A voi, arrivate la puntata anche quindi, a nuoto, quindi figurati. Adesso non ti sento. Adesso già gira il motore, l'altro giorno non girava un cazzo, adesso si è ripreso. Sono salito sopra e ho pulito i campi. E quindi l'ho fatto girare a destra e a sinistra. A capitare l'altro giorno ho fatto una passata di vento, perché stava girando tutto quanto rubato negli eventi. Perché non girava il motore, stavo facendo la forza di inerzia. Oh Pompo, ma tu quando piazzi un'antenna in un palazzo, no? Piazzi l'antenna, fai la calata, una calata di 20-25 metri di cavo, poi fai collegamenti, tutto quanto. Quanto ti prendi di mano d'opera? Antenna è tutto con la calata, 50 euro ho sempre preso io. Perché, vabbè, se avrei più il dubbio la verità, perché meno di 80-100 euro di mano d'opera non si prende. Ma io ho sempre preso 50 per quegli amici che conosco, non è che... Se la persona è esterna, se c'è un bel da fare, il problema cambia, capito? Se sei in palazzinata di un centro storico, che devi fare il giro del casino, metterci chiudine e cose del genere, allora la cosa cambia, capito? Anche perché devi pagare e passare il cavo all'interno e ci vuole i chiudini. Se invece una volta che hai fatto la calata, prendi direttamente dove c'è il muro e lì c'è il partitore già pronto e poi c'è il segnale distribuito in tutto l'appartamento, allora se la piega, cioè sto parlando in pratica come prima presa, Cazzo, è che non lo fai gratis, cazzo 50 euro, cioè salire sul tetto un palazzo di 5 metri, è il pericolo che ti venga un capogiro e ti va io se sei fottito, no, ma non c'è, ma non esiste. Io ho sempre fatto così, ma io sto parlando quello che l'ho fatto a degli amici, non l'ho fatto a gente di fuori, capito? Gente di fuori non l'ha più, e chi l'ha più visto? Cioè, se dovessero chiedere uno di fuori quanto prendo, naturalmente che piglio un'ottantina di euro di manodopera, a parte le antenne, capito? Però allora un amico 50 euro vanno bene, basta e vado, non è fatto un cazzo. E vabbè, io non sto parlando di amici, era giusto così. Perché uno che conosco io prende 250-300 euro per fare quel lavoro così. Contento di antenna, però bisogna vedere, ci mette, se ci mette palo, antenna, amplificatore, ci vogliono sì 300 euro. Però solo la calata e l'antenna c'è già, 300 euro, sta tranquillo che non dipende, se non chiama la finanza, li chiama, non va così. E un pezzo tutto preso bizzato, una cosa del genere, e sono diventati oro e salire sopra un tetto. Se prendi le antenne, l'amplificatore e gli fai la calata del cavo, gli fai l'impianto completo, i 300 euro li supera pure, perché secondo l'amplificatore piazzi, si entra a cavo, e non ti bastano 500 euro, hai capito? Per l'installazione. Ma quanti clienti vuoi così gratis, capito? E allora, già si rifanzi niente, ma stessi. Se uno ha un impianto da fare completo con l'amplificatore tra cavo, col cavo di discesa, le antenne, palo eccetera eccetera, i 500 euro ci arrivi per forza, perché mi sembra che viene intorno ai 250 euro solo l'amplificatore, più aggiungici il cavo e tutto il lavoro che c'è da fare, quindi poi se un impianto centralizzato non ti bastano 1000 euro. Ti devo dare al minimo 2000, adesso come adesso, perché i pezzi costano. Il tecnico si fa pagare, ma allora, il discorso è questo, se uno, lo so, sale su un tetto comunque sia, è a pericolo, cioè c'è il rischio che ci scendi giù, e altri ma 50 euro, cioè per dire, se deve far pagare bene, perché non sei in terra, se sei in terra è un conto, che non è in rischi. Ma purtroppo lì sei alto, sei in alto, senza parapetto né niente. Se ti pari io su, arrivederci e grazie. E che tu magari pure un funerale. Tu immaginati, io con Giuseppe e Lucino siamo andati giù a... in quelle palazzine che c'è la scala di gioca, sono 5 piani, figurati. E poi in lamiera, ha fatto in lamiera la cosa, c'era... il tirante in acciaio del passo, che parte da una parte e va dall'altra per poterti agganciare, capito? Figurati, è a norma, tutto un passo a norma, tu ti apprendi, ti agganci e puoi lavorare tranquillo anche a pendola vendola nel palazzo, per dire. Dobbiamo prendere 60 euro per cambiare un amplificatore e sistema di antenna, perché era piegata, ho fatto altro che togliere l'ultimo spezzone del palo, gliel'ho cambiato e gliel'ho rifilato nell'altro palo di sotto e l'ho cambiato 60 euro, era perfetto l'impianto. E io mi ha pagato subito, anzi mi ha regalato anche 20 euro in più, solo e quel pezzo era una cosa allucinante, capito? Quindi figurati tu. Sì, ma la gente non vuole pagare, capito? Cioè non vuole pagare, non vuole spendere, perché dice che è troppo, fatti un due allora, dici a due. Sai cos'è? Il problema adesso è, la questione è questa, la gente va alla Blic, come si compra le antenne, costano la fesseria, capito? E si compra il cavo e cose del genere, chi è un tecnico come fare, non fa altro che farsi da lui, ci sono quelle antenne di hotel, fino alle pesce, logaritmiche, che fanno VU, ci mettono il cavo, fanno la ricerca dentro casa e guardano e vedono tutto, e hanno speso 90 euro di antenna, mettici 20 euro di cavo e l'impianto è fatto, hai capito? E se lo fanno gratis. Lo so, vabbè, Bricco, ma non è che vi fa già antenni buoni, eh. Lo so, tra antenne e amplificatore non spendi una cazzata la Bricco, ma già lo sai anche tu, spendi pochissimo, quindi la gente va lì, è pieno, tutti quanti vanno a pigliare le antenne, quella del primo canale, quella del secondo, e spendono poco, capito? C'è addirittura che se ne piazza una sola, quella del secondo per vedere tutto, secondo la testa sua. Capito? Poi magari quando non vedono niente allora chiamano il tecnico, quando dice che ci vuole l'altra antenna e quanto viene troppo eccetera eccetera, prima pigli la mano d'opera, allora prima no, ma mi compro l'antenna, me la piazzo, piazzo di laddù, non so quante volte la gente lo sai, l'impianto lo vuole gratis, se gli chiedi un pezzo del genere, non te ne vale del manco, cioè non ti fa fare proprio niente, figurati tu. Siamo arrivati a quel punto, era quella tra poveri, capito? Ci sono gli elettricisti che fanno il tutto, piazzano cancelli, piazzano antenne, piazzano... fanno di tutto, fanno, magari lo fanno anche male, perché fanno quattro lavori differenti uno dall'altro e uno non, magari lo fanno bene ed è male. Poi, come si dice, il rappresentante dire qual è il tecnico che fa le riparazioni, perché c'è un sacco di gente che gli hanno piazzato il cancello e poi dopo un mese è andato male, perché le fotocelle magari non funzionano più, sono state a rovescio eccetera eccetera, capito? Lo so che fanno tutto e vabbè. Niente, adesso sì, io sono a quarta e vabbè, insomma ne esco, questa sera devo uscire, devo andare a vedere una corrida qua a Sassari. Ci sentiamo, ciao. Sì, ok, sentiamo, stiamo bene, buona corrida, ciao ciao. Ciao. C'è nessuno? Chi è avanti? Chi è questo che si sente solo? Ciao Giulio. Ciao, grazie, ciao. Sto guardando la televisione. C'era uno che si sentiva solo, che ha chiesto se c'era nessuno. No, io sto guardando la TV. E anch'io, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao Giulio, ciao. Fattisio. Chi è? Avanti. Chi è? Carabinieri di Albera? Aperto. Ah, ho capito. Ben scritto. No, dimmi. Ho detto, beh, Antonello. Cosa c'è, con il cazzo? Se ti metti un punto buono, non ti è certo, cazzo, c'è una tela puntata sui temi, guarda. Ho detto, se sei coricato. Come faccio a coricarmi dove c'è il baracchino? Me lo spieghi, mi metto in terra. Ah? No, pensavo che eri, avevi già infilato il pigiama per andartene a letto. No, sono ancora con i calzoni e corso, eccetera, eccetera. Ho girato poco fa. Un po' di verdura e cose e tonno. Fatto bene, fatto bene. Io mi sono fatto un panino con pomodoro, maionese e cipolle. Due pezzettini di cipolle, ma poco però, hai capito? Poco. Ah, io non la capo bene. Pensavo che ti avevi mangiato mezzo chilo di cipolla, allora si già oggi si lo vale già allora. Crocro. Io a me piace la cipolla, capito, mi piace, la digerisco bene, no, non è quello il problema. Il problema è che quando mangio la farina con la cipolla è quello che è brutto, perché non riesco a digerirla la notte. Quello è logico, anche la farina per questa con la cipolla è già fa digerirla. Se l'ho presa una sera e ti giuro, cazzo, ma che l'ha fatto, a cui si mi ha fatto? A parte il mal di stomaco, infatti non l'ho più preso, capito? Lì a Gattempio, l'ho presa da Oggiano e Oggiano è l'unico che si salva, cari. Vabbè, già è buona, già va bene. No, c'è il telefono, cazzo, che non mi fa fare l'applicazione, ma normalmente è bloccata, Ho detto che c'è il telefono e mi ha bloccato l'applicazione, non riesco a fare il codo dell'applicazione, capito? Altrimenti non punto fermo, cazzo. Però capita, raga, sei sempre in movimento, perché non ti dare il fermo? Sono coricato, ero per scatole. Ecco, quando mi parli male ti sento, cara. Parla, mi male, a me non ti sento. Allora ti devo dire che sei un brutto filocchio e paraculo. Ecco, allora vedi, così ti sento. E sei magone, hai capito? È magone, è topo, rospo. Hai capito però bene. Hai capito però bene, eh? Ecco, allora vedi, così ti sento. Se parli invece... A cosa? Che ti sposta a destra e a sinistra con quel cazzo di pisello, cazzo. Tienilo fermo, tienilo dritto dentro il materasso. Ma vai a... Cazzo, non ho capito, boh. Cazzo, ma devo uscire in testa io, cazzo, boh. Dai, ti piazzo un ponte vicino a casa tua, cazzo, guarda, almeno ti sento. Perché non è possibile, cazzo, boh. Senza ponte proprio tu non esci nulla, sei sempre in movimento, un cazzo di mano, magari ti stai guardando la televisione e stai guardando i canali samariaci, cosa ne so io? No, mi sto guardando il film di Bud Spencer, Pari e Dispari. Stai guardando? Pari e Dispari, hai capito, Bud Spencer, Rete 4. Ah, Bud Spencer stai guardando, lì va bene allora. Appunto, perciò guardatelo anche tu che ti fai un paio di risate. Aspetta, sto provando una cosa. Un secondo. Cos'è che stai guardando? Ho detto provando, non guardando. Aspetta un secondo, sono venuto a far culo. Ho sbagliato anche a pigliare il microfono. Aspetta che sto sistemando un coso. Ho arrivato a un telefono 2 secondi. Ah? Sono crepato il telamento di un telefono, cazzo, vecchio, vaffanculo, cazzo. Cos'è? Non ho capito. Per ricaricarlo, è un motore era. Devo più gribati, cazzo, vaffanculo, era un marcio, cazzo. Vabbè, c'ha 15-20 anni questo cazzo di telefono. Vabbè, già rifaccio al limite il coso, ma non mi si crede sotto i cavi e lo alimento esterno. Ah, va bene, già va bene. È un peccato, era. Vabbè, pazienza. Ma com'era questo Motorola, grande? Grande Motorola vecchio, ne ho un altro uguale, ma non ci sono le foto che ci sono di lì, capito? E quindi è un casino, ma fa cura a me, cazzo. La pazienza, vuol dire che faccio carico la batteria con i cavetti esterni e va a fanculo. Penso fare così di saldo e sono più tranquillo. Va bene così. La batteria di tuo basso, ti intendo. Mi senti basso? Eh? Ha detto che mi senti basso? Io. Cazzo. E cosa vuoi? Mi devo mettere sul tetto? Non sarebbe male come idea, ma purtroppo non puoi farlo adesso. Hai capito? Oggi il cavo sotto ti avessi messo l'antenna fuori, agganciata come si chiama, col cavo, ma non puoi fare un cazzo, quindi, a un certo punto. Se non ti compri il cavo. Se quando non mi compro il cavo, Antonè, il discorso è quello. Se non arrivano cash, non posso farci un cazzo. Se già lo so, perché non arrivano i soldi, non puoi fare niente, no. Non è che ci vuoi fare. È proprio un tubo. Capito? Gloria. Due minuti, arrivo subito. Non è mio, naturalmente, non è l'altro. Lasciami 5 minuti e poi ti richiamo qua. E vabbè, vai, non ci sono problemi. E arrivo subito. E già sono qua. Avanti. Ah, ci sei. No, batti un colpo. Ah, che due colpi batto. Cappa. Trovato l'hai. Ok. Cavalo, ci aspetta un attimo un secondo. Sono rientrato. La morte è rientrata. Dove sei seduto a letto? E cos'è? C'è il retrotomba, tu. Ho capito il tubo. Ho detto cazzo che c'è la voce di un morto. Ti sento ben basso, cazzo blu. Chiamami al telefono. Vai su canale, subito, su 14 il telefono, va. Che facciamo prima. Sì, va bene. Prova.